Torino, la mia città. Un programma di Marco Ponzi. Ragazzi, buongiorno, Radio Bawalla. Marco vi racconta Torino, la sua città. Nel salotto della città, il luogo che per eccellenza più esprime la regalità e l'eleganza di Torino. Oggi Piazza San Carlo è un meraviglioso spazio di tranquillità, una fetta di cielo ritagliata nell'oscurità dei portici. Una piazza ampia e soprattutto simmetrica, con le orcate che ornano i lati più lunghi e le due chiese gemelle, Santa Cristina e San Carlo, poste all'ingresso sud. Al centro il simbolo cittadino, il Caval de Bronze. Il monumento equestre raffigura il duca Emanuele Filiberto nell'atto di ringuainare la spada dopo la vittoria di San Quintino del 1557 sui francesi. Un'esplosione barocca nel cuore della città, restituita ai torinesi dopo essere stata per lunghi anni un parcheggio per le auto. Al calar del sole, la fioca luce dei lampioni stile impero dona un'atmosfera soffice e calda alla piazza, rendendo ancora più piacevole il soggiorno. La grazia e la raffinatezza del luogo hanno fatto sì che la vita politica piemontese si svolgesse sempre in Piazza San Carlo, o per meglio dire nei suoi elegantissimi caffè, frequentati da nobili, politici e scrittori. Il più famoso è per l'appunto il Caffè San Carlo, dove pagai una lattina 6.000 lire. Io e il mio amico dovemmo svuotare le tasche di entrambe per raccogliere tutto quello che avevamo e pagare. Per noi sacrileghi era un bar come un altro, e non la caffetteria dei Naudi, Dumas, Gramsci e Benedetto Croce. È nel salotto buono della città che nell'estate del 2006 mi laureai campione del mondo. La domenica Torino si preparava all'evento, la finale del campionato del mondo, in maniera disciplinata, quasi distratta. La folla nel pomeriggio aveva lentamente invaso la piazza, rendendola un catino caldo e rumoroso. Abusivi facevano affari d'oro vendendo bibite refrigerate, tenuta molle in bacinelle da bucato colme di ghiaccio. Bandiere e trombe coloravano e frastornavano la piazza, che quel giorno non era sempre la stessa. Non c'era nulla che la ricordasse, l'eleganza e il silenzio non le appartenevano. Io e gli altri tre prendemmo posto nella piazza davanti al maxischermo. Dovevamo vincere insieme. Il rituale scaramantico era stato seguito alla regola. Ogni partita del mondiale era stata seguita in un luogo differente da quello precedente. Nelle prime partite aveva portato bene, quindi bisognava continuare. Indossavo anche la Lacoste celeste, quella vestita nelle prime partite. Obbligatorio ritirare sino alla fine. Avevo con me la mia bandiera, scolorita, sgualcita e logora, ma quella è la mia bandiera e guai chi me la tocca. Nulla era stato lasciato al caso. La posta in gioco era troppo alta per perderla per incuria o sbadataggine. Io avevo volutamente omesso di chiamare alcune persone, passando per maleducato, perché il loro influsso era negativo. La scaramanzia in questo caso è ammessa, in tutte le sue forme più ancestrali. Ed ecco però che nella perversa ricerca della perfezione spuntò l'elemento destabilizzante, l'evento imponderabile che non puoi immaginare, o peggio, governare. Ilaria, con il suo dolce sorriso e l'abbraccio più caloroso che conosca, apparve tra la folla, proprio dietro di me. Mi gettò le braccia al collo, stringendomi forte a sé. Un simile trasporto non può non renderti felice. Mi sorrise, parlammo e poi scomparve tra la folla, così come era apparsa. Erano 6 anni che non la vedevo. L'ultima volta? Il pomeriggio di Italia-Francia, finale dell'Europeo, quello perso ai supplementari. Impossibile non pensarci. Incredibile coincidenza. Presagio funesto? Il suo caldo abbraccio mi riempì di enorme piacere, ma come non pensare a quanto accadde quell'ultima volta? Ed ora si stava ripetendo. Scorreva il film della partita. Il regista aveva previsto la sceneggiatura più lunga e drammatica possibile, degna di una finale di un mondiale di calcio. Ad ogni discesa di Ribéry e Zidane il pensiero correva di Ilaria. Non vi dico quando quest'ultimo colpì la traversa. Non poteva andare come l'ultima volta, non era possibile. I tempi regolamentari, quelli supplementari e poi l'ultimo rigore. Gol! La gioia, il dolore, il delirio, la festa e soprattutto noi, quattro amici campioni del mondo, insieme. Di quella giornata ricordo il caldo al braccio di Ilaria e le bandiere in festa. Questa è la mia storia, di me e Piazza San Carlo. Avete ascoltato Torino, la mia città, un programma di Marco Ponzi.